I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Adesso, per favore, non passiamo dal panico ai tarallucci e vino. La battuta viene spontanea non solo guardando quello che è successo ieri in borsa, da crolli superiori al 20% a rialzi superiori al 40% nel Monte dei Paschi e andamenti analoghi anche per la Cassa di Risparmio di Genova e tutte le altre banche coinvolte in questi giorni di tonfi borsistici. Mettiamo le cose in ordine. Ieri a dare una mano al mercato ci ha pensato in primo luogo Super Mario Draghi, con le sue parole sia sulle intenzioni della Banca Centrale Europea sia sulla qualità delle riserve e delle garanzie delle banche italiane in linea con quelle delle altre banche europee. Poi c'erano ormai prezzi assolutamente ingiustificati di questi titoli bancari e un rimbalzo o ricopertura da parte della speculazione ci stava tutto. Infine si è iniziato a riconoscere quanto abbiamo scritto per intere giornate, ossia la necessità di distinguere tra alcune banche con maggiore difficoltà e lo stato di salute generale delle banche italiane che rispetta i criteri europei. Detto questo, però, i problemi sul tappeto restano. Ci sono 200 miliardi di sofferenze bancarie, di crediti che non torneranno più indietro. Ci sono ipotesi ancora tutte da dimostrare sui matrimoni che compirà il mondo delle popolari e soprattutto occorre arrivare a una parola chiara e definitiva sulla ipotesi e sulla realizzazione soprattutto della cosiddetta bad bank, ossia di un insieme di banche su cui potranno confluire i crediti non esigibili. Insomma, l'eccesso di pessimismo di questi giorni e settimane ha favorito solo gli speculatori e chi ha venduto lo scoperto, ma un eccesso di ottimismo nei prossimi giorni danneggerebbe tutto il paese Italia e non solo il suo sistema bancario. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Tre nomi: Apple, Cisco e Amazon, tre aziende globali che fatturano miliardi di dollari, che operano in settori avanzati e hanno un'altra cosa in comune. Tutte e tre queste multinazionali si preparano a fare investimenti in Italia. Lo farà Apple, che aprirà nell'area di Napoli, probabilmente a Bagnoli, il primo centro europeo per lo sviluppo delle app, un centro che servirà per formare, preparare i futuri sviluppatori delle applicazioni in ambiente iOS, il sistema operativo di Apple. L'obiettivo è di creare 600 posti di lavoro, ma c'è soprattutto l'idea di offrire un'opportunità in un settore avanzato a un'area in cerca di una nuova identità. Poi c'è Cisco, azienda leader nell'IT, che investirà 100 milioni di dollari in tre anni per il sostegno delle startup innovative in Italia. Infine c'è Amazon, che proprio oggi ha confermato l'intenzione di potenziare la propria presenza nel nostro paese. Sono tre casi diversi tra loro, ma importanti, che pongono al centro quei processi di innovazione di cui il nostro paese ha bisogno e che trasmettono anche un segnale positivo in un paese come il nostro, che a lungo è rimasto fuori dai circuiti virtuosi degli investimenti delle aziende globali. Certo, serve e servirà molto di più per rendere il contesto italiano ancor più competitivo in termini di regole, di fisco, di burocrazia, ma la scelta delle tre multinazionali è in qualche modo la prova che il nostro paese ha le carte in regola per recuperare attrattività sugli investimenti esteri. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.